Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Resa dei conti Berlusconi Fiat alla Berlusconi Fini, scusate, la direzione del PDL, non siamo mai stati al traino della Lega, dice il Premier. Il piano Fiat, Marchionne, investiti 20 miliardi, sindacati si accontentino. Le due ragazze morte in gita scolastica a Ventotene, il sindaco a Radio 24, in quel punto della parete non c'era alcun rischio di crolli. Balotelli verso il divorzio dall'Inter, lui si dice sicuro, diventerò il più forte del mondo. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci, ritorniamo dunque a collegarci con Roma per la direzione del Partito della Libertà, riunito nella direzione Elisabetta Fiorito. Elisabetta, sta parlando in questi minuti Fini, come ben sai, visto che sei lì, facciamo sentire un passo del suo intervento. È qualche mese che pongo delle questioni ed è qualche mese che vedo queste questioni poste nella migliore delle ipotesi essere liquidate come delle questioni personali, o in alcuni casi vedo queste questioni essere minimizzate, per carità, forse non meritano grande attenzione, ma non credo che siano questioni poste per intralciare l'azione, men che meno per danneggiare il partito che insieme ad altri ho contribuito a formare. Certamente non sono questioni che vengono poste per compiacere gli avversari. Ecco, Elisabetta, sta andando proprio al cuore della questione, Fini. Sì, appunto, è appena iniziato il discorso di Gianfranco Fini, c'è necessità di fare chiarezza, dice il Presidente della Camera, su alcune questioni politiche. Uno dei confondatori ha delle opinioni diverse dal Presidente Berlusconi, non vuol dire negare ciò che il Governo ha fatto fin qui, non vuol dire mettere in dubbio la leadership del partito, ma, dice Fini, esercitare un diritto. È possibile avere opinioni diverse? Questa è in sostanza la domanda del Presidente della Camera. Ricordiamo la Direzione Nazionale del Popolo della Libertà qui in Via della Conciliazione a Roma si è aperta con il discorso di Silvio Berlusconi. Il PDL è un partito democratico, ha detto il Premier, e ha detto anche che praticamente bisogna fare le riforme, ma sentiamo il passaggio soprattutto sul Popolo della Libertà. Questo ha da essere un partito democratico e, credetemi, io ritengo che difficilmente si possa dire che sino ad ora non lo sia stato. Non dobbiamo avere nessun tema, certo abbiamo tanto da fare, da lavorare, ci sono state fino adesso le elezioni e quindi non c'è stata l'idea di convocare un congresso, ma io suggerisco, questa è una mia personale iniziativa, che entro l'anno si possa anche convocare un congresso che faccia il punto su ciò che il Popolo della Libertà ha fatto fino ad ora, su ciò che è stato e su ciò che dovrà essere. E Berlusconi lancia anche le riforme condivise con l'opposizione, sale poi sul palco il federalista Sandro Bondi che attacca Fini, non ci sono i uomini liberi da una parte e servi dall'altra, poi invece Ignazio La Russa che chiede una diversificazione dalla Lega, ribadisce di non voler abbandonare il partito e Berlusconi risponde: non siamo mai stati subalterni alla Lega. Intervento infine del ministro dell'economia Giulio Tremonti, sentiamo. E termino citando Sturzo: guardate bene ai pericoli delle correnti organizzate in sede a un partito. Si comincia con le divisioni ideologiche, si passa alle divisioni personali, si finisce con la frantumazione del partito. È una profezia che si è già avverata e che non vogliamo si avveri ancora. E torniamo a sentire un passo dell'intervento di Fini, sempre dalla direzione del Popolo della Libertà. Lealtà ai Presidente. A me cose che non ho mai detto. Ha il diritto di replica. Ne prendo atto positivamente. Comunque, avendo un diritto di replica di cui giustamente ti devi avvalere, credo che sia onesto giocare a carte scoperte, anche perché di questo si sta parlando, no? Quindi non credo, ecco, che sia alto tradimento dire che alcune cose le possiamo e le dobbiamo fare meglio. E voglio anche aggiungere che, ecco, queste sono le parole di Fini, avete sentito il battibecco con un irritatissimo Berlusconi durante la direzione del Popolo della Libertà, con cui torneremo a collegarci naturalmente nei prossimi GR24 e ora invece sentiamo le prime reazioni dell'opposizione con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è un commento quello del leader del Partito Democratico Bersani che non tarda ad arrivare. Bersani punta il dito sull'annuncio del Premier di voler fare le riforme insieme all'opposizione e dice: se nel Popolo della Libertà non hanno il coraggio di registrare le differenze profonde tra loro, il mio pronostico è che non si farà alcuna riforma. Hanno un modo di discutere, prosegue Bersani, che non va a fondo dei problemi, siano le riforme istituzionali o quelle economiche e sociali. Quanto alla volontà del Cavaliere di coinvolgere l'opposizione nel cammino delle riforme, Bersani aggiunge: è difficile credergli dal momento che sono sempre andati avanti a colpi di decreti e fiducia. Il segretario del PD è molto duro anche sulla politica economica del governo: noi i conti li abbiamo risanati, loro se ne vanno avanti così, li distruggeranno ancora. Di Pietro infine attacca Schifani, che aveva richiamato fine al suo ruolo istituzionale. La minaccia di dire o ti adegui o si va direttamente alle elezioni si chiama ricatto politico, dice il leader dell'Italia dei Valori. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta, ora torniamo sul piano Fiat presentato ieri. Stamattina l'incontro fra l'amministratore delegato del gruppo Marchionne e il ministro dello sviluppo economico. Abbiamo confermato l'atteggiamento di positività del governo nei confronti di questo piano industriale che conferma l'interesse della Fiat in Italia, ha detto Scaiola. Facciamo miracoli, sono parole invece di Marchionne, faremo più o meno 20 miliardi di euro di investimenti in Italia, ci vorranno 5 anni per spenderli. Direi che i sindacati si possono accontentare, sono ancora parole di Marchionne. E allora cosa prevede esattamente il piano Fiat a proposito degli stabilimenti italiani? Sentiamo il punto. 20 miliardi di investimenti in Italia alla piena efficienza di 5 grandi stabilimenti nazionali che resteranno dopo la chiusura di Termini Imerese e una produzione destinata a salire dalle 650.000 vetture del 2009 al 1.400.000 del 2014, cui vanno aggiunti 250.000 veicoli commerciali. Il progetto Fabbrica Italia, cuore industriale del piano Fiat sull'auto, scommette sul sistema produttivo italiano ma a condizioni chiare: il pieno accordo con i sindacati sulla flessibilità nella gestione degli impianti e del lavoro. Altrimenti, ha spiegato Marchionne, è pronto il piano B, cioè l'uscita dal paese delle produzioni del lingotto. L'offerta è allettante: a Mirafiori si passerebbe dalle 180.000 vetture attuali alle 250-300.000 del 2014, a Cassino si passerà da 100 a 400.000, a Melfi da 270 a 450.000, nello stabilimento Sevel, destinato ai veicoli commerciali leggeri, da 120 a 250.000. Il maggior impegno in termini di risorse è previsto per Pomigliano d'Arco, che passerà da 30.000 a 260.000 auto, recuperando la piena efficienza. Un boom produttivo che avrà bisogno di nuovi addetti. La risposta dei sindacati è stata per ora positiva, con l'eccezione del capitolo Termini, ma la contrattazione sulla flessibilità sarà inevitabilmente molto dura. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore, Torino. Ed ora la cronaca per un nuovo incidente con una minicar a Roma. Ancora minicar protagoniste di incidenti stradali a Roma. La vittima stavolta è un bambino di 5 anni che si trova ricoverato all'ospedale Sandro Pertini. In un primo tempo si era temuto per le sue condizioni, che fortunatamente non desterebbero ora preoccupazioni. Alle 18 di ieri il ragazzino è stato investito da una minicar mentre camminava su un marciapiede assieme alla zia nella zona di Massa San Giuliano, periferia est della capitale. Anche la donna è rimasta ferita in modo lieve. Al volante della microvettura c'era un 16enne appartenente ad una famiglia di sinti italiani. A bordo con lui anche un passeggero, nonostante la legge lo vieti. Il giovane è stato multato per guida pericolosa e il suo mezzo, che dopo l'impatto si è anche ribaltato più volte, è stato sequestrato perché senza assicurazione. Negli ultimi 10 giorni a Roma due minorenni sono morti in due diversi incidenti stradali con minicar. Dopo questi episodi sono stati intensificati i controlli stradali e solo nello scorso fine settimana sono state fermate 215 mini auto. Per meglio individuare quelle con motori truccati, nella capitale verranno anche installati dei telelaser in grado di immortalare le microcar che supereranno il limite di velocità consentito di 45 km/h. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Lo scandalo pedofilia, avrei dovuto contrastare la cultura prevalente. Chiedo scusa a tutte le vittime di abusi e alle loro famiglie, anche se so che le parole non bastano. Così questa mattina l'ex vescovo irlandese di Kildare, Monsignor James Moriarty. Papa Benedetto XVI infatti ha accolto proprio questa mattina ufficialmente le sue dimissioni. Con Moriarty sale a 3 il numero dei vescovi dimissionari. L'Europa è tornata più o meno alla normalità dopo la settimana di passione per i voli bloccati dalla nube islandese. Il punto con Adriana Fracchia. Sì, buongiorno. Come avete detto da studio, voli pressoché regolari oggi nello spazio aereo europeo, secondo le previsioni di Eurocontrol. La nube di cenere provocata dal vulcano islandese è però ancora presente sull'Atlantico settentrionale. Secondo i meteorologi, il cambio dei venti non ha infatti portato alla sua completa dissoluzione. Si rende così ancora necessaria qualche restrizione di volo in alcune zone del nord Europa. Chiusi fino a nuovo ordine vari aeroporti nel sud e nel nord della Svezia e nel sud-ovest della Norvegia. Chiuso anche lo spazio aereo sulla metà meridionale della Finlandia, compreso lo scalo di Helsinki. E oggi intanto l'amministratore delegato della IATA Giovanni Bisignani incontra a Bruxelles i commissari europei ai trasporti Callas e al clima Hedegaard. Sul tavolo le perdite subite dalle compagnie aeree per la nube di cenere stimate in 1,26 miliardi di euro di mancati introiti. Secondo Bisignani i governi dovrebbero risarcire le entrate perse e non dovrebbe spettare alle compagnie aeree il pagamento delle spese di hotel, pasti e telefonate per i passeggeri rimasti bloccati. Ciò che è accaduto, dice Bisignani, è un evento straordinario, un'emergenza senza precedenti e serve dunque una revisione del regolamento relativo ai diritti dei passeggeri in Europa. Ma la portavoce del commissario UE ai trasporti ha già fatto sapere che le compagnie aeree devono rispettare le regole europee sui diritti dei passeggeri e che se non lo faranno spetterà ai governi nazionali mettere in atto le misure necessarie. Ed è tutto per ora, linea allo studio. Grazie, grazie ad Adriana Fracchia. Siamo al calcio. Dopo la scenata nella notte di Champions contro il Barcellona, sembra ormai alla fine il rapporto fra Mario Balotelli e l'Inter, ma dove potrebbe andare Super Mario? Io sono sempre come prima, io sto bene, io sono pronto per diventare il giocatore più forte del mondo. Chissà se davvero ci riuscirà Mario Balotelli a realizzare il suo sogno. Quel che è certo è che se davvero diventerà il migliore lo farà lontano da Milano, o almeno dalla Milano nerazzurra. Troppo forte lo strappo tra il resto della squadra e tifoseria dopo la scenata nella notte, indimenticabile anche per questo, contro il Barcellona. E allora Super Mario è pronto a fare le valigie a fine stagione. Destinazioni, planisfero alla mano, almeno tre possibili. La più clamorosa porterebbe ancora a Milano, ma in casa Milan, malgrado i no di facciata di Adriano Galliani. L'altra strada porta a Manchester, sponda City, casa di quel Roberto Mancini che per Mario è quasi un padrino calcistico. La scelta migliore forse sarebbe Londra, coi Gunners dell'Arsenal, dove Arsène Wenger ha già svezzato decine di giovani talenti del football mondiale, oppure nel Chelsea di Carlo Ancelotti in vena di nuovi investimenti. Tutte piste percorribili, insomma, a meno che a fine anno il presidente Moratti non voglia concedere a Super Mario un'altra, ultima possibilità. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato a lungo della direzione, una direzione piuttosto infuocata del PDL. Battibecco Berlusconi Fini, non sono un traditore, dice il presidente della Camera, mai detto, risponde il Premier. E poi ancora abbiamo parlato del piano Fiat presentato ieri, Marchionne stamattina ha incontrato Scajola, investiti 20 miliardi, ha detto, i sindacati si accontentino. E poi abbiamo parlato della crisi Balotelli-Inter, Balotelli dunque verso il divorzio, lui si dice sicuro di diventerà il più forte del mondo. E ripartiamo proprio dalla direzione nazionale PDL perché c'è un altro botta e risposta a Berlusconi Fini, sentiamolo. Approfondita, è un partito serio oggi che non si vota, che le elezioni sono alle spalle, dovrebbe approfondire, ma è un dettaglio, no? Le elezioni le ha vinte la coalizione, certo. Ma all'interno della coalizione, il Popolo delle Libertà non è che ha avuto quel successo che pur meritava, visto l'azione così efficace del governo, lo dico senza ironia. Non vi voglio annoiare coi numeri, Verdini ha ragione, i numeri sono numeri. Si dà il caso però che continueremo naturalmente a seguire nel pomeriggio questo importante appuntamento romano attraverso anche collegamenti con Roma. Ora passiamo invece alla cronaca, alla morte delle due studentesse a Ventotene, travolte come sapete dalle rocce staccatesi da una parete. Niente politici e telecamere domani a Roma ai funerali. Le famiglie di Sara e Francesca chiedono una cerimonia privata nella chiesa del quartiere di Morena. Ieri i carabinieri che indagano hanno sequestrato documenti al comune di Ventotene. Al microfono di Katia Caramelli, il sindaco di Ventotene, Giuseppe Assenso. Non abbiamo avuto mai da quando ricopro questo ruolo di sindaco, mai nessuna segnalazione di pericolo in quel posto. E ha parlato anche di alcune carte sequestrate. Il PAI, piano assesto idrogeologico. Che dice cosa? Che insistono sull'isola 3-4 zone, insomma, non pericolo crollo, e uno di questi è proprio Calarossano. E invece il resto purtroppo è a rischio. Sì, alcune altre zone sì, sono a rischio. Ma sa, è successo come quando apre un libro, apre un foglio, è proprio a livello della sabbia, è franato, si è aperto proprio questo scoglio, non è che è crollata da 10-20 metri, per l'amor del cielo, è proprio bassa, era proprio attaccato quasi alla sabbia. Quindi, ripeto, proprio è stata una fatalità, non lo so. Alle famiglie dei ragazzi di altre scuole che verranno a Ventotene, sì, cosa si sente di dire? Me lo stanno chiedendo in tanti, stanno telefonando, che noi prestiamo massima attenzione, specialmente noi, io pure io sono papà, io ho una figlia pure io. I campi scuola non sono di oggi, è una vita che vengono a Ventotene, sono diversi anni, non è mai successo niente. Ecco, mi auguro che continuino a venire. Noi prestiamo la massima attenzione su tutto. Con la famiglia ha deciso funerali senza politici e giornalisti. Da rispettare, e rispetto, secondo me non c'è nulla da discutere su questo, nulla da intervenire, nulla da rispondere, per l'amor del cielo. Ma lei ha parlato con loro? Ma guardi, proprio un attimo quando sono venuti, insomma, un minuto. Un altro grave incidente a scuola che sicuramente ricorderete. È iniziato questa mattina a Torino il dibattimento per il crollo del controsoffitto al liceo Darwin di Rivoli. Ci sarà anche il Ministero dell'Istruzione, perché è citato come responsabile civile tra i protagonisti del processo per il crollo del liceo Darwin di Rivoli, sotto il quale il 22 novembre 2008 era morto lo studente Vito Scafido di 17 anni. Il processo si è aperto questa mattina al Palazzo di Giustizia di Torino, ma proprio la richiesta arrivata da Legambiente di citare il Ministero come responsabile ha provocato uno slittamento di 5 mesi, con la prossima udienza fissata il 17 settembre. D'accordo, per quanto sorpreso, il procuratore aggiunto Raffaele Guariniello, che ha ricordato come di solito in processi di questo tipo la citazione avvenga prima. Dal giudice Alessandra Salvadori è arrivato un appello a non creare ulteriori ritardi. Il processo deve essere breve, ha detto, e l'apertura di un fascicolo civile non va in questa direzione. Tra le 62 parti civili costituite non c'è alcun insegnante, neanche il liceo. Tre professori figurano invece tra gli imputati perché responsabili della sicurezza del liceo dal 2005 al 2008, insieme a quattro funzionari della provincia. Per loro i reati contestati sono omicidio e lesioni, entrambi colposi. Marco Ferrando, GR24, Sole 24 Ore. E restiamo in tema di scuola, ma di tutt'altra scuola. Il ministro Gelmini annuncia aumenti per gli insegnanti bravi e parla di una cifra considerevole, compresa fra il 20 e il 30% della retribuzione. Ne parla il ministro della Pubblica Istruzione in un'intervista domani su Panorama. Tema della settimana invece è stato quello del federalismo a scuola. Vorreste insegnanti scelti su base regionale? Vi abbiamo chiesto nel nostro sondaggio di oggi. Il 58% di voi ha risposto che sì, vorrebbe graduatorie regionali. Il 42% no. Questa mattina, al microfono di Alessandro Milan, il senatore leghista Mario Pittoni, primo firmatario del DDL per nuove norme di reclutamento regionale del personale docente. L'articolo 9, che afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. Ora, nel nostro paese la cultura è soprattutto cultura locale, in 100 espressioni diverse. E secondo me, e questa è la grande ricchezza del nostro paese, si salvaguarda solo con un insegnante espressione del territorio in grado di trasmettere valori, lingua, storia e caratteri economici del posto. 40 anni fa, proprio il 22 aprile 1970, milioni di americani si mobilitarono per la difesa dell'ambiente. Era nato l'Earth Day, una mobilitazione divenuta mondiale che ogni anno ci mette sotto il naso quello che stiamo facendo e che possiamo e dobbiamo ancora fare. Ecco alcuni spunti di riflessione. Ci sono più telefoni cellulari che italiani. Produciamo, almeno ufficialmente, ogni anno circa 182.000 tonnellate di rifiuti elettronici, rifiuti pericolosi. Pensiamo ad esempio a un computer che ha sostanze nocive chimiche dannosissime per la nostra salute e per l'ambiente. Greenpeace da 10 anni pubblica una ecoguida, la trovate facilmente online, che permette di scegliere PC e telefoni meno inquinanti. Altrimenti potete regalare il PC a Banco Informatico, si occupa dell'associazione Stefano Sala. Il nostro punto principale è quello di raccogliere computer usati ma funzionanti che abbiano al massimo 5 anni di vita, noi sappiamo che circa il 20% delle attrezzature informatiche che vengono buttate via nei centri di raccolta sono attrezzature che invece potrebbero essere ancora utilmente utilizzate da chi invece non ha informatica e potrebbe in questo modo utilizzarla. E poi ci sono le imprese italiane che innovano. Aziende specializzate nelle energie rinnovabili in crescita per fatturato e per assunzioni. Spesso sono imprese che inventano ed esportano modelli. È il caso di Biosolar. Questa piccola società piemontese è più conosciuta nel mondo che in Italia perché ha inventato un sistema fotovoltaico innovativo. È un progetto pensato soprattutto per i paesi in via di sviluppo, che peraltro sono i paesi che più inquineranno nel corso dei prossimi anni. Alessandro Daneu è il responsabile. Noi concentriamo i raggi del sole e l'energia solare su un tubo ricevitore, utilizzando in questo caso dei sali fusi. Il progetto è molto simile a quello sviluppato da Enea in Italia ed è all'avanguardia nel mondo. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E la giornata della Terra anche quest'anno è l'occasione per il grande concerto del Nat Geo Music Live, questa sera in diretta sul canale 710 di Sky, sul digitale terrestre di Cielo e soprattutto dal vivo a Roma, al Circo Massimo. Al microfono di Marta Cagnola, Simona Biglino, responsabile dei canali National Geographic. Il nostro spirito è quello di festeggiare come National Geographic con un linguaggio che è quello più contemporaneo e più vicino anche alle persone più giovani, che è quello della musica. Quindi è da 3 anni che facciamo dei concerti in piazza a Roma, nei posti più belli di Roma, devo dire. Quest'anno ci è capitato, diciamo, il posto veramente più bello perché abbiamo Circo Massimo a disposizione per il nostro evento. Evento a impatto zero perché i 544.000 kg di anidride carbonica saranno compensati dalla creazione di nuove aree verdi tra Roma e il Madagascar. Il tutto però nel nome di un bel cast. Intanto Simona, una grande star italiana. Pino Daniele non solo è un nome grande, ma è un grande portatore del nostro amore per la natura e per l'ambiente. Devo dire che abbiamo trovato un partner non solo nella musica, ma anche nel passare questi concetti, questi consigli. I Morcibba, che tra l'altro non sentiamo dal 2003 cantare insieme. Non solo, c'è Rokia Traoré, che è una grande cantante del Mali, e una piccola chicca offerta dal canale Naggio Music. Abbiamo i musicisti di Prince, Josh e Cora Dunham, che insieme a DDG ci propongono un progetto del tutto nuovo che Naggio Music metterà a disposizione della platea di questo Air Day. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Vi lascio ad Italia in Controluce, oggi curato da Anna Migliorati. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.